Letture di Radio 24. Con la scomparsa di Oscar Luigi Scalfaro sono spariti anche tutti i suoi segreti. Dai rapporti con i servizi segreti alla trattativa Stato-mafia avviata dopo la strage di Capaci. L'ex presidente, infatti, ha affidato tutte le carte e gli archivi personali ai gesuiti della rivista Civiltà Cattolica, rendendoli di fatto inaccessibili. Oltre mezzo secolo di segreti di vita della Repubblica resteranno custoditi nel blindato archivio dei gesuiti. L'accesso all'archivio di Villa Malta è regolato a insindacabile giudizio dal direttore della rivista, padre Antonio Spadaro. Saranno dunque i religiosi i primi a poter esaminare le carte di Scalfaro. I numerosi documenti sono stati solo sommariamente inventariati. Toccherà ai gesuiti predisporre un indice completo e accurato, e sono in molti a scommettere che presto, sulle pagine della Civiltà Cattolica, compariranno articoli che attingeranno a quel materiale. Ma che ne sarà dei documenti riservati di interesse nazionale che riguardano la lunga vita politica dell'ex presidente della Repubblica, come per esempio le carte collegate alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, avviata dopo la strage di Capaci, quando Scalfaro era già al Quirinale, gli appunti e i diari relativi al ribaltone del 1994 che portò al governo Lamberto Dini, i documenti sui rapporti tra l'ex ministro dell'Interno e i servizi segreti. Chi potrà accedere a queste carte? Chi sarà autorizzato a studiarle? Sarà il Vaticano a esaminarle per primo? Sono domande che al momento restano senza risposta. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Ignazio Ingrao, Così Scalfaro ha blindato i suoi segreti, da Panorama dell'8 febbraio.